24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. La prima volta in Parlamento? No, con che sorte? No, io non entro in Parlamento, entro in una, questa legislatura? Da un ingresso abusivo, lo vedi? Che sta aspettando? Io sono un abusivo, sarò sempre un abusivo. La Priscatola l'ha portato? No, no, ma lui è con voi? Così Beppe Grillo è intervenuto ieri in Parlamento da abusivo, dice per la prima volta, va bene, buongiorno cari italiani, sono le 6:34 minuti e siamo pronti per questa ultima puntata della settimana di 24 mattino. In redazione c'è Miriam Lucchetti, in regia c'è sempre il nostro Carmelo Lauricella che ci ha accompagnato questa settimana perché era alpino Peter Briscapè, chissà. No, è a Piacenza, è a Piacenza, è a Piacenza. Oggi voglio salutare anche il mio carissimo amico e collega Dario Ricci. Ieri gran cena in cui abbiamo parlato dei massimi sistemi per tutta la serata. Allora un grande abbraccio a lui. E quindi i fumi dell'alcol ovviamente si riverberano su questa mattina. Va bene, siamo pronti ad aprire il nostro Parlamento? Sì, dove solo rigoroso caffè questa mattina. Il caffè volentieri a tutti quanti. Ovviamente Nicole Minetti offre come sempre. Allora, con i Two Fingers che ci accompagnano, voglio salutare il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, io devo fare subito i complimenti a Libero, così mi attirerò le solite critiche, perché qua se uno fa i complimenti a uno viene criticato dagli altri. Se fai complimenti... No, ma ce ne fanno così pochi, dai. No, perché, ma porca miseria, c'avete dei titolisti, adesso vi dice che il titolo di prima pagina l'hai fatto tu magari, c'avete dei titolisti, state superando il manifesto nella storia, che il manifesto, no, è, si può dire, il quotidiano forse storicamente che azzeccava i titoli di prima pagina più... Oggi sentite il titolo di Libero, ci prendono per l'IMU, ci prendono per l'IMU, perché è saltato tutto. Cos'è da rigor montis a rigoletta? No, vabbè, ma vi mettete lì, cosa fa? Che è che li sceglie, Belpietro? Che, tu? Ah, quello di oggi, il titolo l'ho fatto io, il cielo da rigor montis a rigoletta è un pezzo del passaggio di Belpietro che poi ho preso e ho messo nell'occhiello. Abbiamo divertirsi un po', abbiamo trovato il colpevole, ci prendono per l'IMU, è il titolo di Massimo De Manzoni che è la prima pagina di Libero. Allora, perché la notizia, cari italiani, la notizia è su tutti i giornali, dovevano sospendere mica l'IMU? Ieri dovevano sospendere l'IMU, Massimo, e che è successo? Sai tu cosa è successo? Berlusconi alle 8:05 ha fatto una dichiarazione dicendo: sono molto contento che il primo provvedimento del governo sia stato il decreto per sospendere l'IMU. Alle 3 minuti dopo è uscita un'agenzia che diceva non se ne fa niente, ha tutto rinviato al prossimo Consiglio dei Ministri. Evidente che c'è stato qualche problema. E i problemi nei giorni scorsi si sapevano quali erano, nel senso che da una parte Berlusconi vuole l'abolizione totale dell'IMU sulla prima casa e Brunetta addirittura continua a insistere anche sulla restituzione di quella dell'anno scorso che era una promessa di campagna elettorale. Sì. Ma perché non la paga Berlusconi? L'aveva promesso, l'aveva detto li do io. Ah, se vinceva. C'è sempre l'inghippo se vinceva. Sì, non si sa cos'è successo. Il ministro ieri praticamente è successo questo, in consiglio non hanno i soldi. Non hanno trovato ancora la copertura e non hanno i soldi. Infatti, parlando seriamente, ci siamo sotto procedura di infrazione. Forse entro il mese la chiudono la procedura di infrazione per deficit eccessivo a Bruxelles. Togli l'IMU prima che la chiudano, penso che non sarà possibile, per cui prendano tempo in qualche modo. Prendono tempo, in pratica io l'ho twittata così: il Consiglio dei Ministri ieri ha deciso di decidere e poi decideranno. Ecco, questo più o meno hanno fatto una riunione nella quale hanno preso questa decisione. Decideremo. Ecco, però non si capisce dove trovare i soldi. Oggi sempre libero, dico, visto che così abbiamo finito con le sviolinate. Ma che avete proposto voi oggi? Dice, eccoli qui, li troviamo noi soldi, il petrolio in Italia, il gas, il petrolio in Italia. Ma che vuol dire? Che avete proposto? No, ma questa è una cosa serissima in realtà. Beh, in Basilicata. Beh, in Basilicata. Abbiamo il petrolio, ma no, non è solo Basilicata, stiamo parlando della pianura padana, stiamo parlando della Sicilia e stiamo parlando soprattutto del gas offshore in Adriatico, che tra l'altro c'è talmente tanto che i croati ce lo stanno già portando via, visto che loro hanno molto meno burocrazia e problemi a fare le trivellazioni. Noi veramente ne abbiamo tanto di petrolio, ma veramente tanto. E petrolio e gas, non è che siamo al Kuwait, però insomma neanche forse la Norvegia, però ne abbiamo abbastanza. Abbiamo fatto un conto, anzi non hanno fatto gli esperti, non noi, che in 10 anni, ma a partire da subito, perché ci sono già i progetti esecutivi, si potrebbero ricavare 75 miliardi in più di quelli che stiamo ricavando con il nostro piccolo capotaggio. Quindi potrebbe esserci. E qual è il problema? Le obiezioni, gli ambientalisti? I problemi sono sempre quelli, appunto, le obiezioni, gli ambientalisti, i permessi. La burocrazia. Per fare un rigassificatore ci si mette 5 anni, ci mancherebbe. Quindi la volontà, anche spesso, la volontà politica. Negli anni passati sospetto che i nostri governi si sono fatti molto condizionare dalle pressioni internazionali, perché sai, le sette sorelle non è che sarebbero molto contente, perché sono sempre, se noi ricaviamo dell'alto petrolio per i fatti nostri, loro non ce lo vendono. No, ma intanto io però uno dei paesi che consuma di più comprando, insomma, all'estero. Tutti ci stiamo arrabattando a capire come trovare questi soldi per la copertura dell'IMU. Intanto oggi sul Sole 24 Ore, dopo ieri, anche oggi un'esclusiva. Ieri si parlava dei capannoni e Saccomanni, il ministro dell'economia, ha detto le imprese, i capannoni pagheranno regolarmente il 17 giugno. Ieri sul Sole se abbiamo accorto che c'erano rincari fino al 200%. Ma per quelli devono pagare. Il 17 giugno è la data di scadenza. Poi forse arriveranno i soldi alle imprese, che c'è già subito un rinvio di Antani per due, Sbiriguda, la supercazzola prematurata, ma intanto il 17 giugno bisogna pagare in maniera rigorosa questo. Oggi sul Sole anche tutti i rincari città per città di come i comuni hanno aumentato al massimo le aliquote IMU, e quindi eccolo lì, oggi scopriremo sul Sole tutte le città quanto si paga. Però io vorrei chiedere anche agli ascoltatori via sms al 349-238-6666, scriveteci, ma davvero c'è questa cosa dell'IMU è così dirimente? E Massimo De Manzoni, è davvero così importante questa dell'IMU sulla prima casa o è una bandiera? Io mi ci arrovello da giorni su questa cosa. Guarda, è sia importante che una bandiera. Diciamo che dal punto di vista puramente economico il vero problema, più che l'IMU sulle prime case, è proprio l'IMU sui capannoni industriali e sulle aziende, che in un momento di grave crisi come questa, in cui le aziende sono lì per chiudere, l'IMU su certe metrature commerciali può essere il colpo di grazia. Per cui la battaglia più seria, più importante sarebbe quella, che fa meno presa in campagna elettorale, questo è evidente. Quella sulla prima casa è una battaglia sicuramente di principio, perché la prima casa per gli italiani è il bene rifugio per eccellenza, e vederla tassata vuol dire prima doverci pagare sopra e poi veder deprezzata anche la casa, perché in un momento già di recessione, già di crisi dell'edilizia, una ulteriore tassa ha provocato un ulteriore abbassamento del mercato e praticamente anche un abbassamento dei prezzi, perché noi abbiamo una casa, chi ha una casa, che sicuramente dall'introduzione dell'IMU in poi vale di meno, perché poi si va a venderla materialmente sul mercato si incassa meno di prima. E come, come la polizza vita di molti italiani, hai capito che è un problema. Ed è un problema anche dal punto di vista del mercato. Come ci scrive anche l'ascoltatore, invece chi è in affitto può andarsene a... Cioè, voglio dire, quelli in affitto altri problemi forse, ma o ha fatto altre scelte, non tutti hanno scelto di comprare casa, però in Italia quasi l'80% degli italiani ha scelto di comprare casa o ha ereditato una casa, sì. Per cui è un problema che riguarda veramente tante persone. No, ma è chiaro. È un problema che riguarda un mercato, come ripeto. Il primo problema è quello sui capannoni e sui capannoni delle imprese, quelle pagano, quella è l'unica certezza. E quelle invece pagano salato. Invece per l'IMU la sospensione, chissà, ne discuteranno in spogliatoio domenica e lunedì. Mamma mia, sta roba dell'abbazia, io non riesco a uscire. Il governo che va a farsi benedire in abbazia, che in genere anche voi dite sul Libero porta un po' sfiga, ieri anche il Fatto ricordavano, insomma, tutti i giornali, i precedenti non proprio illustri. Comunque, allora facciamo così, mandiamo le informazioni sul traffico alla segreteria telefonica, rientriamo con Massimo De Manzoni. Ho visto, dovevamo avere anche Vladimir Luxuria, ma non si è svegliata, non so, c'è il cellulare spento e vabbè, starà dormendo. Attenzione, nella segreteria telefonica c'è un ritorno clamoroso, la zappa, il contadino della zappa torna, è tornato a farsi vivo nella segreteria. 24 mattino. Andate su Google, cliccate Operazione Guardia di Finanza Roma Esquilino cinesi e vedete come si fa a non pagare l'IMU. Il 90% dei codici fiscali erano falsi di questi operatori commerciali. Bravi cinesi, bravi, e noi li ospitiamo, bravi. No, volevo dire, siccome Sallusti l'ha detto che la prescrizione è una sconfitta della magistratura, se si fanno delle leggine ad hoc, che magari da 5 anni per la prescrizione la si abbassa a 3, la magistratura lascia meno tempo per proseguire nei processi, no? Caro Milan, ti ascolto tutte le mattine. Milan ha sempre detto che è meglio fare il fior tra i poveretti che il poveretto tra i fiori. Noi altri italiani siamo come i magrebini, non c'è niente da fare. Chiamo il tacco, chiamo tutto il fondo là che ne mai fuori tutto. È meglio andare con la Libia, con la Tunisia, con l'Egitto, con l'Algeria, con Marocco, Spagna e Grecia. Allora siamo i paroni del mondo. Alessandro, attenzione deputati e senatori 5 Stelle. Fino a ieri hanno bevuto il tavernello con i bicchieri di plastica. Oggi stanno bevendo champagne con bicchieri di cristallo. Ritornare ai bicchieri di plastica dura. Meditate, gente, meditate. Ciao Alessandro, no niente, sono Marcos da Brescia, volevo solo vedere se era la tua segreteria veramente, perché ho preso il numero alla radio di corsa. Un bacione, ciao. Signore Milan, non ci serve più nessuno qui, e non li potremo mandare nemmeno giù il campo a zappare, perché se trovano un albero di cerase, per mangiarsi i frutti lo tagliano, e non capiscono niente. Guarda un po' Bersani, non è azzeccata una! Una non è azzeccata, la sbagliate tutte. Sai come li definiamo noi? Sono quelli che dicono forse sì e forse no. Sono favorevoli, ma di pare il contrario. Mamma mia, siamo finiti, è tornato Massimo De Manzoni, il nostro agricoltore di Terni Semo, come li chiama Bersani, quelli che dicono forse sì e forse no. Vabbè. No. Li chiama Veltroni. Il contadino è quello che ci regalò il mantra che è andato avanti per mesi. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a zappa Lucampo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro. E a cena una minestra scunnita. Questa era la sua ricetta per tutti i politici. Poi bellissima, dice, non possono neanche mandarlo nei campi, perché se devono prendere, se vedono un albero di cerase, credo che sia le ciliegie, no? Credo siano le ciliegie, per magnarsele se tagliano l'albero. Questa è la definizione dei politici, secondo il nostro grandissimo ascoltatore. C'è questa storia di Beppe Grillo. Allora, andati in Parlamento, ecco, però De Manzoni adesso attaccherai Beppe Grillo, si sa, cioè, però almeno sono gli unici che discutono, ridare la diaria, non ridare la diaria, ridare i soldi, non ridare, quegli altri si tengono tutto, questo è intanto quegli altri discutono se ridare l'IMU o non ridare l'IMU. Però dal comunque, punto di vista comunque, dello stipendio gli altri si tengono tutto, questo è il dato di fatto, insomma. Questi discutono, avevano detto ridiamo tutto e poi fanno i conti con la realtà o con il benessere, a seconda di come lo si vuole vedere, perché poi c'è anche un principio di realtà alle volte, no? Hanno detto delle cifre e poi magari calate nel pratico, quelle cifre sono un po' striminzite per vivere a Roma, per andare su e giù, per fare delle cose. Come ha detto il nostro ascoltatore, no? Bevevano il tavernello con bicchieri di plastica, adesso... Ma sicuro che c'è quell'aspetto lì, del resto anche è un personale politico, diciamo così, tra virgolette, nel senso che è stato selezionato nel modo che sappiamo, molto spesso non si sa da dove viene, che precedenti ha, che convinzioni ha, è chiaro che non c'è niente di nuovo, cioè, era chiaro che sarebbe successo, che questo aspetto sarebbe emerso, visto ieri sera da Santoro, il vicepresidente del Parlamento regionale siciliano, Grillo ha detto, sai come l'ha definito Beppe Grillo ieri? Questo qui, Venturino, è un pezzo di merda, ha detto. Oggi ha detto che fonda il partito dei pezzi di merda e rischia di avere un successo clamoroso. tra l'altro oggi Venturino viene intervistato anche dal Fatto e rincara la dose, dice, e il Movimento 5 Stelle è un branco di pecoroni. Vabbè, diciamo un'avventura finita non benissimo, devo dire, tra Venturino e il Movimento 5 Stelle. Però devo dire, messaggi, allora, IMU, la casa, sono importi modesti, ci scrive l'ascoltatore, l'IMU sulla prima casa costa meno del bollo, non è l'IMU il problema, un altro ascoltatore, l'IMU si potrebbe non pagare se si andasse a espropriare migliaia di miliardi delle società offshore nei paradisi fiscali, no IMU sì patrimoniale, ci scrive Gianpietro, Augusto invece è pura demagogia, vabbè, insomma ognuno c'ha la sua. Però voglio farti sentire un audio, Massimo Di Manzoni, la nostra Elisabetta Fusconi. E sai che esistono le ambasciate delle regioni a Bruxelles, no? C'è quella anche di Crocetta dove vuole mandare, anche voi avete fatto tante inchieste. Allora, la nostra Elisabetta Fusconi ha sentito la dottoressa Stimolo, quella che è responsabile dell'ambasciata, già si è arrabbiata, ha detto all'inizio della telefonata, era già se la chiama ambasciata, signorina, dobbiamo chiudere subito la telefonata, siamo una rappresentanza della regione Sicilia a Bruxelles, comunque non parlo, però noi ovviamente l'abbiamo registrata qualcosa sui costi della rappresentanza della regione Sicilia a Bruxelles, sentite. Le regioni italiane, le assicuro che hanno tutta una sede, che funzionano tutti bene e che dovrebbero essere valorizzate di più. Forse sarebbe sufficiente l'ambasciata italiana a Bruxelles che c'è già? No, l'ambasciata italiana a Bruxelles non è assolutamente sufficiente, perché in genere l'ambasciata italiana a Bruxelles non fa mai gli interessi delle regioni, fa quelli del governo italiano, che spesso costano con quelli delle regioni. In questo momento siete in due, ma si prevede che sarete? Non lo so, questo lo deciderà il presidente. Cioè non c'è ancora nulla di deciso? No, non c'è ancora nulla di deciso. E questa cifra di 16 come è venuta fuori, scusi? C'è una legge che lo prevede, una legge regionale che ha istituito l'ufficio di Bruxelles, che prevede 16 unità. 16 persone, 16 addetti sono comunque giusti per poter fare il lavoro bene e poter svolgere un buon lavoro a servizio della regione. Cioè, eccolo qui, De Manzoni, servono 16 persone, 16 persone. È una delle grandi tragedie italiane. Cioè, il fatto che le regioni si sono create a piccolo stato alla loro volta, lo stato ce l'abbiamo lo stesso. Sì, l'ambasciata non serve, fa l'interesse del governo italiano che cozza con quello degli interessi delle regioni. No, noi siamo fantastici, raddoppiamo sempre, triplichiamo anche tutte le funzioni a livello statale, regionale, comunale, provinciale. È così. È pazzesco, è chiaro così. Che non, le ambasciate regionali sono un'assurdità. Sì, non chiamarle ambasciate perché sono state rappresentanze della regione. Comunque ringrazio Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, devo andare subito al giornale radio, ci ritroviamo dopo per la segreteria telefonica. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7.22 minuti, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo alle 8.15, allora, di questa decisione del Movimento 5 Stelle, il dibattito che c'è sulla diaria. Ci sarà con noi un deputato del Movimento 5 Stelle, Enrico Cappelletti, avremo con noi anche Mario Sberna, forse l'avete già conosciuto, l'abbiamo già invitato in passato, deputato di Scelta Civica, che tiene per sé 2.500 euro, il resto lo dà in beneficenza e dice si può vivere con 2.500 euro. Insomma, stipendi e parlamentari, stipendi e politica. Con noi avremo anche il presidente del consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, perché c'è il dibattito anche lì, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, Grillini che ha denunciato il primo stipendio mastodontico, e vedremo, stanno discutendo come e se ridurre le paghe dei nostri beneamati politici. Tutto più tardi, ora i giornali, che in questo venerdì 10 maggio si dividono almeno nelle aperture sullo stop improvviso all'IMU. Ma dovevano cancellare l'IMU per la prima casa ieri, uno stop tecnico, vedremo di capire cosa è successo. E la questione giustizia e Berlusconi, questo nelle aperture. Il Sole 24 Ore per un secondo giorno consecutivo ha una esclusiva dopo l'IMU e le imprese, oggi alto la sorpresa su IMU e CIG, e c'è lo speciale su tutto quello che si paga comune per comune, poi lo vedremo. Per il Corriere della Sera, il governo prende tempo sull'IMU, la Stampa, casa a settembre la nuova tassa, si cercano i fondi per il decreto, il Messaggero, caos IMU, slitta il decreto, Avvenire, stop tecnico sull'IMU, Libero, ci prendono per l'IMU. E poi Berlusconi, Repubblica, i giudici vogliono eliminarmi, Berlusconi va in piazza. Il Fatto Quotidiano, Berlusconi assale i giudici, il Colle e il PD tacciono. Il Giornale, mani dei PM sul Parlamento. L'Unità, giudici, il Cavaliere torna in piazza. Queste le alcune delle aperture. Voglio subito parlare di quello che è anticipare sui giornali, quello di cui parleremo poi approfonditamente con ospite dalle 8.15. E allora, Grillo, ieri è andato in Parlamento, c'è questo tema della diaria. Il tema è trattenere tutta la diaria, rendicontare tutto questo. Cioè la diaria è quella parte, una parte dello stipendio dei parlamentari, sui 4.000 euro al mese. Poi c'è l'indennità. La diaria è quella che serve per le spese, da rendicontare tutte, no? Per chi non è di Roma, soprattutto dove si vive, dove si mangia, dove ci, come ci si sposta, se si beve il caffè, se si va a cena, eccetera. E il tema è... tutta quella parte non rendicontata va restituita, e ieri Beppe Grillo in maniera molto chiara ha detto ai suoi: niente cresta sulla diaria, questo è il titolo per esempio di pagina 12 del Corriere, minaccia anche una lista nera, poi frena, pubblico i nomi di chi tiene i soldi, anche questo su Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, che ha avuto il merito tre giorni fa di tirar fuori per prima questa notizia del dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle. Grillo minaccia di pubblicare i nomi di chi tiene i soldi, il gruppo si ribella. E, ci sono anche delle interviste, i dissidenti, ecco uno di questi dissidenti, nel senso coloro che non sono molto d'accordo, uno di questi è Alessandro Furnari, che viene intervistato sia da Repubblica sia da Andrea Malaguti sulla Stampa. Ecco, leggo questa intervista: anche noi 5 Stelle DOC teniamo famiglia, un deputato definito dissidente. Allora lei rendiconterà tutti i soldi, restituirà tutti i soldi della diaria non rendicontati? Vedremo, ognuno di noi ha esigenze particolari. Ma sembra un no, Furnari. C'è la privacy. Non ha paura di finire nella blacklist? Su quella Grillo ha fatto un passo indietro, ha capito. Ha cambiato idea. All'inizio dell'incontro è andato a gamba tesa, ha detto di mandare i soldi a fanculo, poi parlando si è reso conto che sarebbe sbagliato essere così drastici, soprattutto che il regolamento che abbiamo firmato non impone affatto di restituire il denaro non rendicontato. E un altro è Adriano Zaccagnini, intervistato dal Secolo XIX da Ilario Lombardo a pagina 10, anche lui sulla diaria Beppe sbaglia, questa è caccia alle streghe. Insomma, cos'è? Scricchio lì, qualcuno che contesta? Certo, in un dibattito in cui si può dire nel Movimento 5 Stelle c'è questo dibattito, negli altri partiti si tengono tutto e basta. Certo, c'è invece qualcosa di più di uno scricchio lì, uno scontro vero e proprio, un'epurazione, quella che Beppe Grillo ha fatto per il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana Antonio Venturino del Movimento 5 Stelle. definito da Beppe Grillo ieri, secondo tutti i testimoni raccontati dai giornali, un pezzo di merda. Uno che, secondo Beppe Grillo, si sarebbe tenuto parte appunto della diaria, è stato per questo mandato via. Dispiace insomma ripetere questa parolaccia, ma c'è anche nel titolo a pagina 5 del Fatto Quotidiano: io pezzo di merda, lui ha ridato il paese a Berlusconi. Così parla Antonio Venturino al Fatto Quotidiano, intervistato da Giampiero Calapà. Ci siamo abituati, è andato pure leggero nei miei confronti, la verità è un'altra. Venturino parla di sé in terza persona: non si tiene i soldi, quello che hanno fatto i miei colleghi mi spiace moltissimo. Il Movimento 5 Stelle si mostra ancora una volta per quello che è, incapace. Era a Roma a porsi di fronte a Bersani, incapace si dimostra in questo momento di dare risposte politiche. E poi dice: è un movimento di pecoroni nelle mani di qualcuno. Insomma, con questo Antonio Venturino credo proprio abbia concluso la sua avventura nel Movimento 5 Stelle. Vabbè, approfondiremo alle 8:15. Voglio dare solo un flash per quella che è la prima intervista ufficiale del ministro allo sport, ma soprattutto delle pari opportunità, e qui parla in questa qualità Josefa Idem, intervistata da Repubblica Caterina Pasolini, perché rilancia l'annosa dibattito. Questa volta ce la faremo, questa volta non ce la faremo, questa volta il dibattito sarà solito impazzito e mai razionale. Il dibattito è su le unioni omosessuali. Josefa Idem: basta coppie di serie B, proporrò una legge per le unioni gay. Pagina 21 di Repubblica: presenterò un disegno di legge per le unioni civili. Non deve importare se una scelta di condividere con la donna o un uomo, se una persona è gay, lesbica o eterosessuale. La cosa fondamentale è che tutti i cittadini devono avere gli stessi diritti senza distinzione di sesso. Nozze gay come in Francia, chiede Repubblica. Non è importante come le chiami, ma i diritti che dai, e questi devono essere uguali per tutti i cittadini, non importa con chi convivano o di chi si innamorano, perché è ingiusto non poter stare accanto a chi ami se è malato e perché lo Stato ti considera un semplice conoscente. Non devono esistere cittadini o coppie di serie B. Prevede anche l'adozione per le coppie omosessuali. Qui idem ci va cauta. Occorre tener conto della realtà del paese, cominciamo dalle unioni, poi si vedrà. Ecco, poco prima del ritiro in spogliatoio, domenica e lunedì, annunciato da Enrico Letta, questa bella intervista che unirà molto, no? Sulle unioni omosessuali, uniranno molto queste parole del ministro Josefa Idem su questo tema etico, certamente un tema anche sentito nel paese. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qui a leggere i giornali con la vicenda dell'IMU che tiene banco, una delle vicende che tiene banco, il giallo ieri, perché dovevano nel Consiglio dei Ministri cancellare l'IMU per la prima casa, rifinanziare anche la cassa integrazione, peraltro, forse anche più importante, invece tutto slittato per motivi tecnici. Qua cade l'acqua intanto, meno male che c'era il tappo e non si versa tutto. Slitta il decreto su IMU e fondi CIG, così titola a pagina 3 il Sole 24 Ore. Letta tenta il primo sprint, ma le coperture non sono pronte. Però ecco questo annuncio: la decisione politica è presa. Insomma, cari italiani, ci hanno fatto un consiglio dei ministri nel quale hanno detto che la decisione politica è stata presa, ma ce l'avevano già detto che volevano cancellare l'IMU. Allora io, in maniera un po' così ironica, ho anche twittato sul mio profilo Twitter Alino Milan. Insomma, ieri il Consiglio dei Ministri ha deciso che decideranno, ha deciso di decidere e poi decideranno, ecco, diciamo, prendiamola con calma. È molto interessante il retroscena di Alberto Gentili in prima pagina del Messaggero, che racconta il perché di questo slittamento. Lo sprint di Letta, l'accordo c'è, e poi ecco lo stop tecnico. È solo un rinvio, c'è pieno accordo nel governo sull'obiettivo di sospendere l'IMU, rifinanziare la CIG. Enrico Letta così a sera cerca di sdrammatizzare. Per la verità, racconta Gentili, Letta aveva capito fin dalla vigilia che l'aria si stava facendo pesante. La via Crucis che aveva dovuto compiere Nitto Palma per essere eletto alla Commissione di Giustizia, la condanna a Silvio Berlusconi. Insomma, d'improvviso ha inserito nell'ordine del giorno la sospensione dell'IMU, ma la fretta ha provocato il pasticcio e la brusca frenata. Alle 6 di sera Sacco Manni, cioè il ministro dell'economia, ha detto stop. Il provvedimento, così come era stato studiato, non era coperto dai soldi, soprattutto nella parte per il rifinanziamento della cassa integrazione. Non si possono prendere i soldi dal fondo per la detassazione del salario di produttività, ha detto Sacco Manni. Angelino Alfano ha imposto un altro stop. Così non va, perché nel decreto voleva essere prevista anche la sospensione dell'IMU anche per fabbricati e capannoni industriali, quelli che, di cui ieri il Sole ha parlato, con rincare fino al 200%, e che pagheranno il 17 giugno, l'ha ribadito anche ieri sera da Lilli Gruber il ministro Sacco Manni, quella scadenza del 17 giugno, care imprese, non si tocca, pagate, pagate, pagate lo Stato, poi lo Stato vi darà i debiti con calma dietro quando ce la farà, intanto pagate. E, insomma, questo pasticcio creato dalla brusca accelerata, pare che ci sia stato anche un po' di tensione all'interno del governo, sempre con garbo però viene definita, con Alfano che con garbo ha parlato di errore di comunicazione, è stato dato un annuncio, si è fatto credere che toglievamo l'IMU invece che avremmo approvato il decreto, invece no, è un vero peccato, già, è un vero e peccato davvero. Intanto, a proposito di IMU, secondo giorno di esclusiva sul Sole 24 Ore, dopo i capannoni oggi l'IMU e le città. Eccolo qui, negozi, affitti e seconde case, ecco gli aumenti dei comuni, pagina 4 e 5, città per città, tutti gli aumenti, Torino, La Spezia, Bologna, Milano, eccetera, 5 comuni hanno addirittura alzato l'IMU, sono Asti, Benevento, Cuneo, La Spezia e Treviso, ma in metà delle città il prelievo era già al massimo all'1,06 e non c'erano margini per ulteriori incrementi. Comunque trovate tutti i dettagli di quanto si paga città per città. Dunque l'IMU salta. Per il momento, sarà nel prossimo Consiglio dei Ministri, si vuole ovviamente sperare. Saltato anche ieri il taglio dei doppi stipendi ministri parlamentari. Sapete che Letta lo aveva promesso, i parlamentari che ho nominato ministri non percepiranno la doppia indennità, percepiranno un solo stipendio. Ieri doveva essere il Consiglio dei Ministri in cui si decideva questo. Per il momento sospeso, rinviato anche alla prossima, al Sole 24 Ore, pagina 16, con Marzio Bartoloni, stipendi dei ministri, tagli rinviati, sono interessati 14 titolari di dicastero, per un totale di circa 48.000 euro l'anno ciascuno, sono interessati 19 sottosegretari per un taglio di 40.000 euro di stipendio ciascuno, per carità sono in tutto 4 milioni di risparmi, 4 milioni, tanto che quei 4 milioni dovrebbero contribuire a rifinanziare in qualche modo la cassa integrazione. 4 milioni sono quisquiglie, però era il segnale, è il segnale che Letta ha dato dicendo vanno tagliati le doppie indennità. Verrà fatto al prossimo Consiglio dei Ministri. D'altronde oggi è anche la prima settimana decisiva per la riforma elettorale, la prima settimana decisiva per l'abolizione delle province, che va a finire senza nulla di fatto. Anche per il Quotidiano Nazionale i ministri rischiano 50.000 euro, ma il taglio alla casta può attendere, questo è il titolo, può attendere, arriverà la prossima volta, anche se... Una decisione, racconta il Corriere della Sera in termini di spending review, comunque di risparmio, è stata presa. Fiorenza Sarzanini a pagina 5, Carabinieri, Polizia e Finanza, le feste accorpate il 2 giugno. Saranno tagliate le sfilate di primavera, finisce il carosello di Piazza di Siena. Insomma, le ultime disposizioni sono state emanate ieri, forze armate, forze dell'ordine avranno un'unica festa, quella della Repubblica, il 2 giugno. Sarà la parata tradizionale Foro Imperiale a Roma, l'occasione per celebrare anche se in maniera sobria. Non ci sono soldi nelle casse dello Stato e dunque le indicazioni sono queste: niente più festeggiamenti il 16 maggio per la polizia in Piazza del Popolo. popolo nelle piazze di molte città il 18 maggio, annullato il carosello dei carabinieri il 5 giugno a Piazza di Siena, stop anche per la Guardia di Finanza che aveva fissato il proprio appuntamento il 20 giugno allo Stadio dei Marmi, basta con gli anniversari dell'esercito, marina militare, aeronautica, ricorrenze della protezione civile, guardia forestale, raduni dei vigili del fuoco. L'unica festa che verrà salvata, appunto, è quella delle forze armate del 4 novembre e invece tutti festeggeranno la parata del 2 giugno. Dunque, le feste accorpate, si risparmia anche così. Si risparmia, oh, attenzione, stanno andando in abbazia, stanno andando in spogliatoio, come dice Letta, stanno andando in ritiro e hanno deciso, lo leggo sul Messaggero, una curiosità, pare che Letta abbia studiato una misura low cost. Partiranno tutti in torpedone, in pullman. Ministri, o due o tre pullman, perché insomma non ci staranno tutti, e quindi vabbè, canteranno le classiche canzoni da gita, tutti in gita in abbazia domenica e lunedì. Questa la decisione di Enrico Letta. Tra l'altro, forse l'abbiamo già messa sul mio profilo Twitter, no, ma metterò in esclusiva, l'abbiamo trovata, in esclusiva, guardate tra poco se chi è su Twitter, Alino Milan, metteremo tra pochissimo in esclusiva, perché l'abbiamo ottenuta, la foto del torpedone del governo in partenza per l'abbazia domenica e lunedì. Oh, la politica invece si interroga su due cose. L'una è, sembra una notizia un po' insomma che si replica nel tempo, negli ultimi 20 anni, non è la prima volta. Silvio Berlusconi ha deciso di andare in piazza domani a Brescia e con una manifestazione per protestare contro la condanna. Anche sul giornale addirittura c'è tutti con Silvio, e proprio la pubblicità sul giornale, una pagina di pubblicità. Berlusconi insomma in piazza contro i giudici, e d'altra parte domani si incrocia con una giornata sicuramente decisiva per le sorti del Partito Democratico. E allora Silvio Berlusconi è pieno di retroscena dopo la sentenza, dopo il silenzio, era durato poco, sembrava infatti irreale, surreale il silenzio di Silvio Berlusconi dopo la condanna, infatti ieri invece un profluvio di interviste televisive. Secondo Repubblica, la roadmap del cavaliere per ricandidarsi: tra un anno mi toccherà scendere in campo. Questo è il titolo di Repubblica, Francesco Bei, a pagina 3. Chiusa la finestra elettorale di giugno, è a settembre che Berlusconi ha spostato la verifica sul governo. Non è un caso che ieri abbia ripetuto nelle interviste TV che a Brescia dirò che resto in campo. Questo è il sentimento di Berlusconi, definito inferocito per la gragnuola di colpi che sta ricevendo dai tribunali. Ieri c'è stata anche la richiesta di rinvio a giudizio a Napoli per la presunta compravendita dei senatori. Berlusconi non ci sta a farsi cuocere a fuoco lento per poi uscire di scena. Dopo l'estate faremo il punto, annunciata ai suoi, e vedremo cosa saremo riusciti a portare a casa sull'IMU, la riforma della giustizia. Se sarà necessario dovrò ancora ripresentarmi. Anche se i sondaggi, racconta Repubblica, l'ultimo commissionato da Alessandra Ghisleri, la sua fedelissima per i sondaggi, darebbe una discesa di un punto percentuale nell'ultima settimana del gradimento del popolo alla libertà. Questo perché, direbbe Berlusconi, è il primo segno di insofferenza dell'elettorato del centrodestra verso le larghe intese. E dunque, se non ci sarà una soluzione definitiva sulla questione IMU, ha osservato anche il senatore Minzolini, è evidente che a settembre andrà fatta una verifica sul governo. Comunque, il cavaliere, provocazione a tavolino, ma insiste sulla pacificazione anche per il Corriere della Sera con Paola Di Caro. Il leader frena i falchi, domani comunque si presenterà a Brescia. Berlusconi in piazza contro i giudici anche per Libero, un Berlusconi che scrive Libero in un retroscena di Salvatore Dama: non ha chiuso l'occhio, o non ha chiuso occhio dopo la condanna, così dice ai suoi: non ho chiuso occhio tutta notte, è una sentenza iniqua e provocatoria, certi PM mi vogliono morto, ma non metto in discussione l'esecutivo. Questo Silvio Berlusconi. E poi il PD. Il PD domani è la giornata del congresso o l'assemblea in cui si dovrà decidere un po' chi sarà il che cosa? Il segretario, il reggente, il traghettatore, il facilitatore. Ecco, anche qui ci si è arrabatta tra le varie possibilità. Beh, oggi si può iniziare a raccontare dalle varie interviste che ci sono, ad alcune come Rosi Bindi sulla Stampa per parlare del futuro del PD, oppure Franco Marini su Repubblica, se si toglie qualche sassolino nei confronti di Renzi, dice si è vendicato con me ma in politica ci sta. Oppure si può iniziare dallo straordinario Iena, il graffio sulla Stampa pagina 3 di Iena alias Riccardo Barenghi, sedute, domani si riunisce il PD, praticamente una seduta spiritica. Questo Iena, la situazione più o meno è questa, perché sentite addirittura Civati, un altro che scalpita alquanto. Civati dice sul Corriere: domani il primo che si alza finisce in rissa. E il Corriere titola proprio così: rischia di finire in rissa domani il congresso del PD. E poi le interviste, come detto, intanto parla Roberto Speranza, che è il capogruppo del PD alla Camera e che è dato come, da tutti come uno dei possibili traghettatori, uno dei possibili uomini nuovi, colui che potrebbe guidare il PD. Fa un'intervista a Repubblica dicendo: preferisco fare il capogruppo. Intervistato da Tommaso Ciriaco, dico no alla guida del partito. Quindi pare tirarsene fuori Roberto Speranza: vengo da una lunga esperienza all'amministrazione comunale, poi segreteria regionale, ora capogruppo, l'esperienza più bella che mi sia capitata, non ho alcuna altra ambizione che farlo al meglio. Il partito mi ha chiamato, non mi sono tirato indietro, affidando a me il secondo gruppo parlamentare più grande della storia repubblicana, una scelta coraggiosa, non ho altre ambizioni, le ripeto, sono innamorato del mio lavoro, non ho altre ambizioni. Così Speranza pare tirarsi fuori, però è tutto in alto mare, tutto in alto mare. Anche Repubblica racconta con Goffredo De Marchis. Ivan Scalfarotto dice: stiamo parlando alla vigilia di come sistemare il palco, della scaletta degli interventi, dell'organizzazione del voto, ma pare che siano i dettagli, perché per il resto sembra tutto vicino al tracollo. Guardate anche Franco Marini, intervistato appunto da Repubblica, da Giovanna Casadio, il quasi presidente della Repubblica, dice: mi chiedono hai amarezza, ma quando mai? Se do uno schiaffo a uno, prima o poi quello me lo ridà. Però la rottamazione non è colpa di Renzi, che pure di colpe e superficialità ne ha un quintale, ma è del partito. Doveva tappare la bocca a chi diceva, a personalità che avevano ancora da dare, di accomodarsi alla porta. Avete sentito Marini? Il partito doveva tappare la bocca a gente come Renzi. Alle primarie io sostenni Bersani. Che Renzi si vendicasse nei miei confronti è nelle cose. Marini, che evidentemente di vendette se ne intende, politicamente parlando, dice: in politica si fa così. Comunque il partito doveva tappargli la bocca. Non sono depresso, ma certo il PD è malato ed è da rifondare. Rosi Bindi anche rispunta, intervistata da Federico Geremicca sulla Stampa pagina 7. Attento PD. Rosi Bindi che dice: domani dobbiamo scegliere il segretario, io ho criteri semplici. Il primo: abbiamo bisogno di un segretario al quale non si possa attribuire la responsabilità della situazione nella quale ci troviamo, un uomo o una donna che non venga dal gruppo dirigente che ha fatto tanti errori, altrimenti tanto vale chiedere a Bersani di restare fino al congresso. Il secondo criterio: vorrei un segretario che non venisse scelto perché è di sinistra o di centro, vorrei un segretario semplicemente democratico e che, uscendo eletto, non pensi di avere un futuro quanto un compito, gestire il partito fino al congresso con la collegialità. Vabbè, non fa nomi. Comunque l'idea della pacificazione è irricevibile, parla poi delle larghe intese. Questo Rosi Bindi. Allora, vi do solo due chicche in chiusura. La prima: il Fatto Quotidiano fa un'accusa molto pesante, racconta con Marco Lillo a pagina 11 di un colloquio in carcere intercettato in cui Totò Riina parlava con sua moglie. Il titolo è esplosivo: la stima di Riina per Renato Schifani. A un certo punto, parlando di Schifani in questo lungo colloquio che viene trascritto sul Fatto Quotidiano, dice: è una mente. Quindi Riina direbbe di Schifani, intercettato il capo dei capi, si lancia in una lode al più potente dei Berlusconi siciliani. Ed è un'intercettazione in carcere, risalente al 10 giugno del 2008, pubblicata oggi sul Fatto Quotidiano. E poi c'è tutto il dibattito di Twitter su Mentana: resta, torna, torna, resta, rimani, resta. Fiorello intervistato dal Fatto: Enrico resta. Enrico Mentana risponde: no, non rispondo mai a chi si copre la faccia. Enrico Mentana sta su Twitter o esce da Twitter? Non esce da Twitter, ma sta lì col profilo. Sono problemi, problemissimi. 24 mattino. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan, quando sono le 8 e 16 minuti. Allora, vogliamo parlare di stipendi, di politica, di costi, di stipendio anche dei parlamentari. Ieri è arrivato a Roma Beppe Grillo per parlare con i suoi deputati e senatori e è arrivato così. La prima volta in Parlamento? No, con che no, io entro in Parlamento, entro no, in una, questa legislatura da un ingresso abusivo, lo vedi? Che io sono un abusivo, sarò sempre un abusivo. La priscatola l'ha portata. Sono un abusivo, sarò sempre un abusivo, così Beppe Grillo, per poi parlare con i suoi deputati e senatori. Appunto, il tema è quello della politica ai soldi. A un certo punto pare che abbia detto dalla diretta Twitter che mandavano vaffanculo ai soldi. Questo è stato l'esordio. Insomma, si parlava soprattutto, il dibattito all'interno del movimento riguarda la diaria è una parte dello stipendio complessivo, no? C'è l'indennità e poi c'è la diaria. Il dibattito all'interno del movimento mi pare di aver capito questo, ma insomma c'è una parte della diaria che magari non verrà rendicontata, e allora che si fa? È obbligatorio restituire? Oppure uno se la può tenere perché magari ha delle esigenze diverse da caso a caso. Ma ci spiega tutto un onorevole del Movimento 5 Stelle, Enrico Cappelletti, che saluto. Buongiorno, buongiorno Cappelletti. Buongiorno Milan e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, voglio salutare anche, le ho presente, forse l'ha conosciuto in Parlamento, se lo vede girare con dei sandali francescani in periodo di Pasqua non si spaventi, perché ci ha già spiegato che è il fioretto che lui fa. Mario Sberna, buongiorno onorevole di Scelta Civica, ben ritrovato. Grazie, buona giornata a lei e agli ascoltatori e al collega. Mario Sberna, l'abbiamo già conosciuto, è diventato un pochino celebre in Parlamento. Lui si tiene 2.500 euro e il resto lo dà in beneficenza, e adesso ci spiegherà anche come. Allora, intanto Cappelletti, ci aiuti a capire quant'è una diaria più o meno, se è già arrivato lo stipendio? Ma in Senato sono 3.500 euro. 3.500 euro. Il tema è questo: nel regolamento che avete nel Movimento 5 Stelle, voi dovete ovviamente rendicontare tutto, se uno va al ristorante, spese, spostamenti, telefono, eccetera. C'è una parte che però non è rendicontata, cioè mi chiarisca questo punto. Sì, sì, volentieri, mi faccia fare però una premessa doverosa. E so che lei ha le premesse, ma le assicuro che è di 30 secondi. No, la faccio. Io è doverosa perché con i problemi immensi che c'è questo paese sono costretto a dire che sarebbe molto più utile spiegare che cosa stiamo facendo come Movimento 5 Stelle in Parlamento per l'Italia e per gli italiani, piuttosto che parlare della gestione di centinaia di euro della diaria. Ad esempio, ma proprio le cito puntualmente, stiamo lavorando sul reddito di cittadinanza, c'è la gente che si suicida, bisogna dare delle risposte immediate, bisogna parlare e stiamo lavorando su misure immediate per piccole e medie imprese. Al di là dei 40 miliardi che sono conosciuti, ma c'è un progetto addirittura per 1 milione di abitazioni che si potrebbero in qualche maniera, di compravendite di abitazioni tramite un nostro progetto social housing. Stiamo lavorando alla legge anticorruzione, adesso io tra l'altro partecipo alla Commissione Giustizia e avrei molto piacere di potergliene parlare. Oppure, ma questo sì, ma guardi, anche tra l'altro del reddito di cittadinanza, noi tra l'altro avevamo fatto una puntata anche con un suo collega Walter Rizzetto che è stato nostro ospite nei giorni scorsi, ma ne parleremo. Certo, oggi sui giornali questa cosa tiene un po' banco, no? Perché è venuto anche Beppe Grillo per parlare con voi di questa vicenda. Per esempio, ecco, appunto, ci spieghi la diaria, come funziona? Voi cosa rendicontate e cosa non rendicontate? Allora, noi dobbiamo rendicontare tutto. Rientra questo all'interno di un impegno che abbiamo assunto anche formalmente, perché abbiamo sottoscritto questo impegno tutti i 103 parlamentari, e all'interno del quale abbiamo rinunciato e effettivamente abbiamo rinunciato al momento dell'insediamento di Parlamento a circa i 30.000 euro di indennità di fine rapporto. Ecco, attenzione, attenzione, questa è una rinuncia del Movimento 5 Stelle, sì. Mi piacerebbe sapere se anche gli altri gruppi politici hanno fatto altrettanto. Credo proprio di no, credo di no. Tengo io. Dopodiché, per quanto riguarda le indennità, noi tratteniamo 5.000 euro lordi, che è una cosa leggermente diversa dai 2.500 netti, ma sostanzialmente si tratta di questa cifra. Il che significa che accantoniamo ogni mese, cioè stacchiamo un assegno mensile di 400.000 euro che andremo a destinare a scopi umanitari. Ecco, anche rispetto a questo mi piacerebbe sapere che cosa fanno gli altri gruppi. Ma non lo fanno, guarda, glielo dico io, cioè ognuno si tiene tutto, a parte Sberna che volontariamente dà in beneficenza, tutti si tengono tutto. No, ma la questione della diaria però è diversa, cioè perché c'è qualche deputato, suo collega, oggi anche per esempio il deputato Furnari intervistato dalla stampa, oppure Zaccagnini sul Secolo XIX, sì, che diceva non dobbiamo restituire tutto, ci sono casi e casi, c'è chi è più in difficoltà, cioè bisogna distinguere un po' da caso a caso. Sì, ecco, noi avevamo assunto questi impegni in campagna elettorale, cioè 2.500 euro netti indennità, restituire il finanziamento, ovviamente il rimborso elettorale, 42 milioni di euro, eccetera, e rinunciare anche a tutte le eventuali indennità aggiuntive. Noi ad esempio qui al Senato abbiamo un questore che ha un appannaggio, sì, anche rilevante, ha la disponibilità di un appartamento, ma ha rinunciato a tutte queste cose. Attenzione, siamo gli unici che adottano questo comportamento quantomeno qui al Senato. Per quanto riguarda la diaria, ci siamo resi conto, ecco, questo l'impegno assunto in campagna elettorale e anche sottoscritto, che tra l'altro è disponibile su internet, quindi può essere, sì, letto da chiunque, prevedeva, fatto salvo, tutto i rimborsi spese sostanzialmente. Ci siamo resi conto però che con un sistema parlamentare di rimborso spese forfettario di 3.500 euro al mese, effettivamente una fetta di questo rimborso non viene consumato. Che fare? Hanno proposto di restituirlo, ma si tratta, alcuni di noi, la stragrande maggioranza ha proposto di restituirlo, perché dico, io ho lavorato 20 anni in azienda e sono abituato a presentare dei rimborsi spese a piedi lista, sì, e non è mai successo in vita mia che a fronte di 50 euro spese me, certo, ne vengano. Ma lei cosa dice a quei pochi, la minoranza? Però, si tratta di essere più reali del re, perché questo desiderio di restituire la rimanenza della diaria è stato un qualcosa in più che è stato proposto da alcuni colleghi, sì, è stato fatto proprio dalla stragrande maggioranza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, cosa che facciamo e faremo, perché rendicontiamo anche le virgole delle nostre spese. Però le chiedo, Cappelletti, Cappelletti, i pochi che non vorranno restituirlo, secondo lei, per esempio, era giusto, come aveva detto Beppe Grillo, farne i nomi, poi dopo è rientrata questa ipotesi? Ma in realtà non sta in questi termini la questione, perché non si tratta di sulla restituzione di eventuali rimanenze non ci sono contestazioni di sorta. Sono tutti d'accordo, si tratta eventualmente di definire che cosa possiamo far rientrare all'interno e che cosa è legittimo far rientrare all'interno delle spese considerate legittime appunto da un parlamentare. E qui si apre un dibattito infinito, perché ci sono delle situazioni che sono tante situazioni diverse quanto sono i parlamentari, potremmo parlare di 1.000 situazioni se considerassimo allargate anche agli altri gruppi. Sì, sì, sì, certo. A proposito di altri gruppi, mi faccio un attimo interloquire con l'onorevole Mario Sberna. Sberna, lei anche oggi sul Corriere l'hanno cercata, è diventata un po' una piccola celebrità, magari lei non vorrebbe diventare una piccola celebrità per questo, però insomma è diventato il deputato che pretiene 2.500 euro, dorme quando è a Roma dalle suore perché lei è di Brescia, riduce al minimo le spese, ci spiega che con 6-7 euro si può pranzare nel centro a Roma, è rimasto un po' colpito da quella deputata del 5 Stelle che ha detto con 2.500 euro non si può vivere a Roma. Si può vivere? Ma no, io sono restato più che altro colpito e offeso dai termini utilizzati, cioè indagata come se fosse, si indaga su di me se commetto del male, non se cerco di fare del bene. In realtà questa cifra dei due, ed è per questo un po' me la sono presa, perché bisogna stare attenti con il linguaggio, insomma, no? Perché le parole sono anche pietre. No, semplicemente quello dei 2.500 euro non è un inseguire nessuno, era esattamente lo stipendio che prendevo come responsabile della cooperativa sociale dove lavoravo, per l'attività che facevo lavorativa, sì. Per cui semplicemente io e mia moglie ci siamo detti non cambieremo con i nostri figli, non cambieremo il nostro stile di vita, e quella era la cifra e quella cifra era stata. Dopodiché l'ha detto anche il collega senatore, c'è della gente che si sta uccidendo in questo paese di sofferenze. Guardi, io ho ricevuto veramente molte email, telefonate e lettere, mi viene veramente da dire chi può, senza fare polemiche, senza fare storie, senza dire uno è più bravo dell'altro, chi può in questo momento dia delle risposte immediate a chi ha bisogno, perché non serve a nulla, lo dico davvero col cuore in mano, mettere i soldi in un fondo e lasciarli in un fondo, serve tirarli fuori e darli a chi in questo momento, adesso, oggi ha bisogno. Poi faremo tutti i conti. Cioè lei preferirebbe, costa 7,30, quindi lei preferirebbe magari suggerire al Movimento 5 Stelle questi 400.000 euro che loro non prendono, di destinarli direttamente a qualcuno, subito, cioè individuate subito, qualcosa. E... Ma certo, ma c'è un bisogno esagerato. Poi dopo, guardi, io capisco anche certi ragionamenti di colleghi comunque bravissimi, come quelli dei 5 Stelle, che comunque fanno delle rinunce, per cui sono da prendere come esempio, non da essere attaccati o da mettere i nomi nel caso, però capisco che ci sono anche dei ragionamenti riguardo alla fiscalità, al fatto che uno ha figli a carico, non li ha, va benissimo tutto. Io dico semplicemente, chi ha vissuto in un certo modo, può vivere in un certo modo, tutto il resto lo dia subito agli altri, perché subito ne hanno bisogno. Oggi fare tanti ragionamenti, poi un domani le arriverà una da pagare di più nel 7,30, benissimo, quel mese li tratterrà un po' di più dalla diaria o da come si chiama. Lei, onorevole, sì, onorevole Sberna, le hanno fatto oggi i calcoli sul Corriere, li posso riprodurre, tanto lei non ha problemi. Lei tiene 2.500 euro, sua moglie guadagna 800 euro al mese, quindi in totale fa 3.300 euro. Avete 5 figli, qui 7 persone con 3.300 euro, e si vive come? Ma si vive, le lascio immaginare che in questo paese, lo sa benissimo anche lei perché è un bravo giornalista, c'è gente che vive in 7 in 8 con 1.000 euro al mese, cosa stiamo dicendo veramente? Abbiamo questa sola casa, va bene, hanno anche scritto che abbiamo soltanto quella macchina lì, che tra l'altro non è vero perché ne abbiamo un'altra, sempre della stessa marca, ma ne abbiamo anche un'altra, che paghiamo a rate ovviamente, sì, per cui all'interno dei 3.300 c'è la rata del mutuo, perché poi lì non è scritto, ma io invece ho ancora il mutuo fino al 2022, e la rata della macchina, ma si vive, si risparmia, si mettono gli abiti usati, non si spende, non si sta attaccati al cellulare dalla mattina alla sera, e insomma queste cose che fanno tutte le famiglie italiane, perché poi dopo adesso sinceramente mica tutti vanno negli alberghi 5 stelle. No, certo, certo. Per esempio lei, Cappelletti, quando è a Roma che fa? Come vive? Se si riesce a vivere con 2.500 euro? Sai che una deputata vostra ha detto si fa un po' fatica, si riesce a vivere con 2.500 euro a Roma, Cappelletti? No, beh, si riesce certamente, anche perché noi chiaramente abbiamo 2.500 euro di indennità, e poi per quanto riguarda le spese di vita alloggio siamo spesati con la diaria, quindi anche una posizione di privilegio se vogliamo, ma noi non siamo qui per fare una vita a Francescani, siamo qui per creare, di portare all'interno del Parlamento un principio che è quello della sobrietà, e far vedere che si può comunque, riducendo di un 50% l'indennità, mantenere comunque un livello di vita dignitoso. Non è questo, però se mi permette volevo rivolgermi al collega Sberna per dire, va bene, lei ne sta conducendo un comportamento sicuramente eticamente encomiabile, ma quando parla di questo con i suoi colleghi, perché un conto è che il singolo parlamentare persegua un comportamento etico, ma quando parla con i suoi colleghi e si rende conto che i suoi colleghi non attuano un comportamento altrettanto etico, ma come reagisce? Io gliel'ho già chiesto a Sberna che tutti lo facessero, però è una scelta personale. Sberna, io gliel'ho già detto una volta, guardano un pochino in maniera strana gli altri. Dice, credo che ognuno di noi ha il dovere della testimonianza e deve guardare ognuno di noi il proprio comportamento, perché guardi, allora io dovrei stare a guardare che cosa fanno, per fare un altro esempio sull'attività parlamentare, che cosa stanno a fare con Facebook e l'iPad e il computer in aula, coloro che dovrebbero lavorare al posto di, no, Allora ci mettiamo a guardare tutto, insomma, che ognuno guardi se stesso, sia a posto con la coscienza, con se stesso. Però effettivamente lei è un po', è un po' la diciamo l'eccezione, no, almeno di Scelta Civica come degli altri, nel senso, mentre il Movimento 5 Stelle ne fa una battaglia di gruppo, di movimento, poi magari c'è qualcuno che la pensa diversamente, va bene, lei invece è un pesce fuor d'acqua, nel senso, nella decisione, e nessuno le ha mai detto: ma scusa, ma Sberna, ma che fai? Davvero, cioè di criticare o di lodare, no, sinceramente c'è molta serenità nei miei confronti, e quindi non mi sento né criticato, né lodato. No, perché condannato ci mancherebbe, una scelta personale, però nessuno che la guarda in modo un po' strano a dire: vabbè, è arrivato quello che dà in beneficenza tutto, ma chissà cosa vuol fare, vuol salvare il mondo, no? Sì, però insomma, credo che questo sia il passaggio che chiunque quando si mette così nella posizione di voler condividere con altri, insomma, da questo sguardo ci passa necessariamente, sì. Perché non dimentichiamoci che il nostro non è purtroppo un mondo solidale, un mondo egoista. Un mondo egoista guarda la solidarietà un po' di traverso. No, ma io su questo allora vi devo salutare e ringraziare Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle e Mario Sberna, deputato di Scelta Civica. Sberna, l'ultima volta che ci avevamo sentiti volevo sapere com'è andata la partita di sua figlia Aurora. Ha vinto! Esordio di campionato di Aurora, vedi che mi ricordo anche il nome, 9 anni, talmente un bel nome Aurora. Che memoria che ha. Comunque. 9 anni ha sua figlia, ha vinto allora. Sì, ha vinto. Tra l'altro, ma allora, è un caso, la sua squadrettina si chiama proprio Aurora Volley, quindi lei che succede. Tanto avete 5 figli, potete quasi farla una squadra di volley. Sì, va bene, grazie, vi ringrazio Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, senatore, e Mario Sberna, deputato di Scelta Civica. Gli stipendi dei parlamentari, tra poco avremo anche il presidente del Consiglio della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, perché lì c'è un dibattito anche lì, Movimento 5 Stelle versus gli altri politici. 24 allora alle 8:39 minuti, vabbè, ma tantissimi messaggi. Devo dire che Mario Sberna, che è deputato di Scelta Civica, già la seconda volta che lo chiamo, ha fatto questa scelta non legata a Scelta Civica, scelta personale di tenersi 2.500 euro e il resto lo dà in beneficenza. Lui è così, è una scelta molto personale. C'è chi dice: beh, ma insomma, finalmente qualcuno che parla, qualcuno che lo propone anche dovrebbe essere ministro dell'economia. Beh, questa è un po' demagogia, è una sua decisione personale. Ma certo, la decisione del Movimento 5 Stelle, anche il dibattito, Beppe Grillo ha detto ieri, inizialmente faremo i nomi di chi non restituirà tutta la diaria, poi ha invece ceduto su questa linea anche perché alcuni deputati pare abbiano fatto capire che insomma non è che tutti sono i casi sono uguali, cioè magari chi ha bisogno di un po' più di soldi o no. Comunque, gli stipendi e la politica, sentiamo qualche ascoltatore prima di avere con noi anche il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, dove anche lì si sta discutendo in un tavolo di trattative come ridurre i compensi della politica. Martino dalla provincia di Lodi, buongiorno Martino. Buongiorno. Dica. Senta, io ho fatto faccio questa riflessione. I famosi deputati che sono stati trombati, vedi Fini, Rutelli, D'Alema, Veltroni, sì, e altri, no? Ci sono sempre stati in politica, sono cresciuti nelle segreterie dei partiti, si sono arricchiti della politica perché sono 30 anni che fanno politica. E quindi politica. Venga al punto. È giusto che ricevano l'indennità di licenziamento? Guardi, chiamiamola così. Giusto, cosa vuol dire? Da giusto dal punto di vista della legge, è il cosiddetto trattamento di fine rapporto, indennità di fine mandato. È uguale al TFR, cioè lei ha lavorato, Martino lavora. Sì, ecco, ho lavorato. Ecco, il principio è lo stesso, mi scusi, il principio è lo stesso, viene accantonato nello stipendio di parlamentare una percentuale, non so adesso qual è, l'8% a fine mese, che non viene data nello stipendio ed è gli viene dato al parlamentare una volta che ha finito il ruolo di parlamentare. È un TFR, Martino, certo poi le cifre sono molto alte, quindi il principio giusto, se è giusto per tutti anche per loro, non crede? si può anche tagliare, si può tagliare, certo, certo, è quello che magari è scandaloso è la percentuale, percentuale sullo stipendio, se lo stipendio è alto è chiaro che la percentuale dello stipendio è alta. Ecco, siccome si sono già arricchiti abbastanza, si taglia almeno quello. Abbastanza. Sarebbe il caso di tagliarle. Lei propone quello, ma bisognerebbe tagliare lo stipendio. Se si taglia lo stipendio, si taglia automaticamente anche, diciamo, l'indennità di fine mandato. Grazie Martino. Francesco da Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo solo dire che tutto questo perbenismo mi lascia un pochettino sconcertato, nel fatto che i grillini si tagliano lo stipendio e lo usano per, lo destinano a delle opere umanitarie o beneficenza. Amato si prende 30.000 euro e dice ma no, non è tanto perché tanto lo taglio in due e lo do in beneficenza. Scusate, ma questi soldi è meglio che in beneficenza, visto che sono nostri, di noi sì. cittadini, decidiamo noi a chi destinarli. Sì, però scusi Francesco, ma a parte che il Movimento 5 Stelle non dà in beneficenza, perché mettono tutto in un fondo, visto che allora lo stipendio del parlamentare è irrinunciabile per legge, cioè un parlamentare se volesse rinunciare non può, è la legge. Sono il primo a dirlo. La legge, se è troppo, in modo tale che è talmente tanto che questi qui ne hanno un surplus e dopo non lo usano, lo danno in un fondo. Lo metto in un fondo e che deve essere. Per fare investimenti in Tanzania, lo usano per comprare. Lei mette tutto nel calderone, però non è tutto così. C'è i soldi della Tanzania, è un'altra cosa. Comunque, lei cosa propone in concreto? Vorrebbe tagliare lo stipendio, così non c'è bisogno di fare beneficenze. Abbiamo anche gli esempi degli altri stati, andiamo in America, guardiamo quanto prende solo Obama, quanto prendono gli altri parlamentari, adeguiamoci a quello. Gli altri stati. Su quello siamo d'accordo, sfonda una porta aperta Francesco. Andiamo a Bari, anzi in provincia di Bari, Pasquale, buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, io invece sono sempre stato di un parere, per me per quanto riguarda gli stipendi possono anche prendere 10-15 mila euro al mese, quello che mi rode è vedere per esempio durante delle immagini i senatori, gli onorevoli, come si comportano durante il loro lavoro, c'è chi usa il computer, c'è chi si addormenta, c'è chi dice chiacchiere, allora io direi di fare come una scuola, insomma. Di fare ogni 6 mesi, di valutare un po' come si sono comportati. Ma da quindi, che cosa? Un giudizio per esempio sufficiente. Ma chi giudica? Ma chi giudica? No, ma scusi, cos'è? Come la maestra che dice... No, mi perdoni, io sto parlando in questo modo, per far capire alla gente in un modo più semplice, ma naturalmente non parlavo di un voto vero e proprio, cioè far capire agli italiani... ogni onorevole, singolo per uno per parte, sia onorevole che senatore, che cosa ha fatto in questi 6 mesi? Io parlo delle presenze. Ma come certo lo si può giudicare con le presenze, le proposte di legge, le interrogazioni, le interpellanze. Questo fa un parlamentare. Come altro dovrebbe giudicare Pasquale con questi strumenti, no? Non ho capito, mi perdono. Cioè, uno come lo giudica il parlamentare? Se fa delle proposte di legge, se interviene in aula, se fa delle interrogazioni, questi sono gli strumenti con cui giudicare se uno fa il parlamentare adeguatamente. Guardi, lei è più esperto di me, sicuramente mi saprà rispondere benissimo. Io quello che le voglio dire, in questi ultimi anni abbiamo visto come si sono comportati i nostri onorevoli, la maggior parte. Sì. Però sono quasi tutti al loro posto. Allora io direi, perché adesso non ci sta qualcuno che certifichi, di vedere un po' come lavorano queste persone qua, vedere se hanno il diritto di stare dopo 6 mesi ancora al loro posto o di andarsene proprio. Va bene, la sostituzione. Grazie Pasquale dalla provincia di Bari. Allora io voglio salutare, e siamo da lui tra un minuto dopo il traffico, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei, allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora abbia pazienza, 30 secondi, siamo da lei per parlare ancora dei costi della politica. Allora, alla Regione Lombardia si sta discutendo, perché c'è un provvedimento del governo Monti a cui adeguarsi, come ridurre i compensi dei consiglieri regionali. E c'è un tavolo che il Movimento 5 Stelle ha abbandonato. Allora, Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, prima di fare le considerazioni, di chiederle alcune considerazioni politiche su anche l'abbandono del Movimento 5 Stelle, ho letto queste cifre, me le confermi o me le smentisca per gli ascoltatori? Ho letto che il Movimento 5 Stelle proporrebbe per i i consiglieri. 5.000 euro lordi al mese più 3.000 euro di spese tutte da documentare, mentre la proposta degli altri partiti sarebbe di più 6.600 euro lordi al mese per il consigliere e 4.500 euro di rimborsi spese a forfè senza giustificativi. Sono vere queste cifre? Sì, le cifre sono queste, sono cifre lorde per 12 mesi di età, quindi forse sarebbe più utile parlare del lordo annuale, se consideriamo l'indennità di funzione 6.500-6.600 euro per 12 mesi di età, vuole dire 80.000 euro lordi all'anno, sì, che è lo stipendio di un padrone, neanche di un dirigente. Questo è l'importo che peraltro prevede la legge nazionale. La Lombardia sta applicando la legge nazionale più tardi delle altre regioni, perché è andata al voto, si è fatto il Consiglio regionale, come sapete, è stato rinnovato nel mese di febbraio. Le altre regioni hanno approvato la legge applicando l'importo massimo previsto dalla normativa nazionale. Senta, però c'è questa cifra, Presidente, tra l'altro non so se sul cellulare la comunicazione un po' va e viene. La cifra che un po' ha colpito è questa: perché voi, nel senso le altre forze rispetto al Movimento 5 Stelle, proponete 4.500 euro al mese di spese a forfè senza giustificativi? È quel senza giustificativi che un po' mi stupisce. No, ma infatti non è così. Non si tratta di spese senza giustificativi, su questo la comunicazione del Movimento 5 Stelle è un po' approssimativa. La richiesta del 5 Stelle è che questa parte di rimborso spese venga puntualmente giustificata a piè di lista. La richiesta degli altri gruppi è che queste spese, aggregando tutta una serie di voci che precedentemente erano distinte, la diaria, l'indennità di missione, il rimborso delle spese di trasporto, eccetera, possa avere forme di giustificazione più semplici del rimborso a piedi lista con la documentazione. Però, Presidente, noi sappiamo come è successo anche in passato, gli scandali, no? Dove laddove c'era poca chiarezza si è annidato tutto un magma nel quale poi sono entrate, no, cene, vacanze, non solo in Regione Lombardia, ma un po' ovunque, per cui la Guardia di Finanza è entrata in tutte le sedi regionali. Cioè, non è meglio fare una cosa di precisione certosina pur di evitare scandali? Ma certo, è meglio, infatti sarà così, ma sarà così per quella parte di spese che sono le spese di funzionamento dei gruppi che sono state oggetto della valutazione della Corte dei Conti, della Guardia di Finanza, eccetera. Quelle spese saranno puntualmente rendicontate, c'è anche uno schema di rendicontazione assolutamente puntuale che stabilisce cosa è ammesso e cosa non lo è. Quindi non si potranno più fare le spese pazze che in alcuni consigli regionali, anche in quello della Lombardia, sono state fatte negli anni scorsi. Però io credo anche che sia importante fare un'altra sottolineatura. Noi non dobbiamo stare attenti a non buttar via il bambino con l'acqua sporca, perché se azzerassimo tutto, se non pagassimo più i consiglieri regionali, i parlamentari, eccetera, se non garantissimo più nessun rimborso spese a nessuno, il risultato sarebbe che la politica la può fare solo chi ha tanti soldi di suo o chi pensa di no, ma questo, ma, non, questo non, ma mi scusi, non crede che già 5.000 euro lordi siano un buono stipendio mensili? Cioè già state a discutere tra 5.000 o 6.600, perché 5.000 non sono abbastanza loro. I 5.000 euro lordi come sono 2.500-3.000 euro netti, è lo stipendio di un padrone. Allora, io faccio questa considerazione che sottopongo alla riflessione di tutti. Il Consiglio regionale della Lombardia è un po' il consiglio di amministrazione di una regione di 10 milioni di abitanti, grande come il Belgio, l'Olanda, la Svezia. Chi governa una regione così importante è giusto che abbia un emolumento inferiore a quello del dirigente di una qualsiasi delle 800.000 aziende che ci sono in Lombardia? Forse anche questa è una riflessione che non aiuta a selezionare il meglio. E io credo che il vero tema assente nel dibattito è il risultato di chi fa politica, perché il problema è che se chi fa politica non produce nessun risultato non meriterebbe nulla, ma guardi, su questo ci porta su una non so se è una vulgata della gente che dice che i risultati in questi 20 anni della classe politica in generale non ci sono, ma non mi sembra che ci siano molte persone che abbiano pagato per questo, nel senso che molti sono sempre lì da 20 anni, sono sempre gli stessi. Forse è proprio questo che dobbiamo cambiare. cambiare, no? Misuriamo chi fa politica sui risultati che produce, sulla capacità di fare cose concrete. Ma chi lo deve cambiare? Se quando votiamo ci troviamo sempre le stesse persone. Comunque mi fanno, ecco, vede, Presidente, un calcolo veloce di un ascoltatore. Dice che 6.600 lordo sono 4.400 netti. Non lo so, adesso non è che sono 4.000 netti più che... Vuol dire che c'è un'aliquota media... 6.600 euro di solo il 30%, mi sembra un po' poco, però adesso questo è un calcolo che naturalmente dipende poi dall'importo complessivo del reddito di ciascuno, perché come sapete, se c'è solo quel reddito d'aliquota di un tipo, ce n'è un altro di un altro, questo apre un altro problema. Ci sono consiglieri regionali, per esempio, che per fare questo lavoro rinunciano a tutto quello che facevano prima e vivono solo di quello. Ce ne sono altri che magari fanno i professionisti, gli avvocati, gli architetti, eccetera, che continuano a svolgere la propria professione. Non dovrebbe essere meglio la prima delle due? Perché appunto deve essere meglio la prima, lo penso anch'io. È uno dei temi che stavamo discutendo, che stiamo discutendo al gruppo di lavoro. E allora, in conclusione, la scelta del 5 Stelle di chiamarsi fuori vuol dire non partecipare a una discussione che io credo invece si avvantaggerebbe del contributo di tutti su un tema così delicato. Quindi secondo lei sbagliano, hanno sbagliato ad abbandonare? Sì, secondo me sbagliano, e poi credo che sbagliano per ragioni anche un po' capziose, perché vogliono guadagnare visibilità lisciando il pelo dell'opinione pubblica su una modalità che è anche un po' facile, no? In questo momento, se diciamo che i politici non devono prendere nulla, l'opinione pubblica e la pancia della gente dice che va bene così. Certo, tutti noi fuori... dobbiamo costruire un meccanismo che aiuta a far funzionare meglio le cose, non a lisciare il pelo dell'opinione pubblica. Comunque, noi seguiremo questa vicenda, Presidente. Intanto la ringrazio, vedremo come va a finire questo tavolo di trattative. Grazie per essere stato con noi. Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, del Popolo della Libertà, non l'ho detto, ma di questo partito, con noi. E allora ci fermiamo, è venerdì. E quindi l'appuntamento è rinnovato a lunedì. Grazie a tutti, da Miriam Lucchetti, da Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni in redazione, il nostro Carmelo Lauricella in regia, alle 6.30 lunedì. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 Mattino.